oracolo del Signore degli eserciti. La gloria di questa seconda casa sarà maggior di quella della prima, dice il Signore degli eserciti, e a questo luogo io darò la pace, oracolo del Signore degli eserciti. Il 24 del nono mese, il secondo anno di Dario, fu rivolta la parola del Signore al profeta Aggeo. Così parla il Signore degli eserciti. Chiedi ai sacerdoti una decisione in questi termini. Se uno porta della carne santificata in un lembo della sua veste, e con il lembo tocca il pane, le vivande, il vino, olio o qualunque altro alimento, queste cose saranno santificate? I sacerdoti risposero, no. Aggeo continuò, se uno che si è contaminato per il contatto di un cadavere tocca qualcuna di quelle cose, diventerà essa pure immonda? E i sacerdoti risposero dicendo, sì, diventerà immonda. Allora Aggeo riprese a dire, così è questo popolo, così è questa nazione, al mio cospetto, oracolo del Signore degli eserciti. Così è ogni lavoro delle loro mani, e quanto mi offrono è immondo. Ora tenete bene a mente da oggi e per l'avvenire, prima che si ponesse pietra su pietra nel santuario del Signore, cosa eravate? Si veniva a un mucchio di 20 e ve ne erano 10. Si veniva allo strettoio per cavarne 50 e ce n'erano solo 20. Ho colpito col carbonchio e con la ruggine, con la grandine ogni lavoro delle vostre mani. Voi, però, non siete tornati a me. Oracolo del Signore. Ora dunque, tenete bene a mente da oggi e per l'avvenire. Il seme manca ancora nel granaio? La vite, il fico, il melograno e l'ulivo non hanno dato ancora i loro frutti? Da oggi io vi benedico. La parola del Signore fu rivolta ad Aggeo per la seconda volta il 24° giorno del mese. Parla a Zorobabele, governatore della Giudea, e digli, io scuoterò il cielo e la terra, rovescerò il trono dei regni, distruggerò la potenza delle nazioni, rovescerò carri e cavalieri, uno con la spada dell'altro. In quel giorno, oracolo del Signore degli eserciti, ti prenderò, Zorobabele, figlio di Sealtiel, mio servo, oracolo del Signore, e ti terrò come il sigillo, perché ti ho scelto, oracolo del Signore degli eserciti.